Legislazione israeliana di apartheid contro il popolo palestinese. Legge sull'amnistia del 25 gennaio 2010. Questa legge discrimina i cittadini arabi e palestinesi negandone il diritto civile di manifestare il loro dissenso politico nei confronti dei governi israeliani e dichiara invece esenti da sanzioni legali i cittadini israeliani con cancellazione da ogni casellario giudiziale su semplice richiesta dell'autore del reato, nel caso fossero già condannati per essersi opposti al piano di disimpegno unilaterale dalla striscia di Gaza e da 4 insediamenti nel nord della Cisgiordania dell'agosto del 2005. Oggi gli insediamenti in Cisgiordania sono più di 250, in continuo aumento, popolati da circa 700.000 israeliani. La legge stabilisce anche un processo legale separato per le persone accusate di aver manifestato in solidarietà con i coloni israeliani.